48 ore ci impiega. Sono ancora a Piacenza, come mai? Dipende da pure, molte volte secondo me questi signori venditori aspettano di fare un'unica spedizione, vanno una volta solo alle poste, anziché dire andare due o tre volte, dice dai aspetto domani che tanto c'ho altre cose da spedire, e ci vanno una volta solo dal corriere. Per quello, perché io lavoro tutti i giorni con i corrieri, ci sono dei corrieri che arrivano poco più di 24 ore, io chiamo la mattina e il giorno dopo la sera arrivano, per dirti, se riesci a fare l'ordine la mattina, il giorno dopo la sera arrivano, impressionante. Altri che se la prendono con comodo anche 4 giorni. Adesso sì, ma ci sono anche corrieri, e tipo se ordini Amazon le cose già arrivano puntuali e veloci, cioè hanno delle convenzioni. Ok, Claudio, riprenditi il mic. Sì, sì, Quascella, fate così. Ormai arrivano in fretta, vabbè, in questo periodo un po' stanno tardando un po' tutte le cose, ma penso che da lunedì si sblocchi un po' tutto, perché hanno già dato via libera. Vabbè, non abbiamo neanche più bisogno di autocertificazione, però rimane fatto sempre restrizioni sugli ambienti dove bar, ristorante, riaprono tutti i lunedì. Va bene, avanti già. Ripreso, capo Massimi, riprendi tu allora e fai girare per Gianni, vai. Ehi, che Gianni è però? Perché Gianni ce ne sono tanti, doppio rum? Sì, registrato. Chi è Gianni doppio rum? Ehi, vai Gianni allora. C'è un break, Gianni, non riprendi, avanti il break. Ciao, ciao, buonasera, ben ascoltato, cordialità. Ok, ciao anche a Massimo, ben rientrato. Allora cambio per Gianni doppio rum, se riprende, se riprendi tu Riccardo, dai. Oh Gianni, riprendi. Gianni non riprende, Riccardi non riprendi. Ok, ciao Mattia, ciao Claudio, va bene? Claudio sono per il tuo tempo, se stai sperando. Ciao Massimiliano, ben sentito, ciao anche Claudio D'Amuro, Riccardo si è abbassato un pochettino di segnale. Una domanda Claudio, ma con l'antenna, quella dei Coson, quella la direttiva, quella che ti stavamo parlando prima, l'hai montata su rotore o fissa? Non ho capito, no, scusa. Con l'antenna modificata, quella di Marco, quella che avevo dato io, l'hai montata su rotore o fissa? No, è puntata a nord, è fissa altrimenti. A nord, voce propagazione a nord, in 10 metri viaggia più della 3 elementi, ma non avevo dubbi, ma aveva già detto, ma tranquillo, è un'antenna che viaggia, va benissimo, ma ti dico che va molto molto bene. No, ce l'avevo su un rotolino, quello ti ricordi la storia, e poi l'ho tolto perché si era bloccato, l'ho messo a fissa a nord, rimane lì, capito? Poi adesso ne ho tolto anche la 3 elementi, non ne tolgo tutto, sto aspettando lì che si riesca un po' a organizzare, ne devo scendere anche la 5 elementi per i 6 metri, capito? Ne scendo tutto, lo metterò letto, ne scendo tutto, tutti i radiali sono tutti sopra il tetto, ancora tutti interi, deve venire Andrea a smontarli tutti e portarsi via tutto, capito? Perché danno non ne ha fatto, però non me ne ha fatti tutto, tutto, ho le filari, ho 15, 20, 40, 80 e 60 metri anche adesso. E va bene, per i 6 metri non metto niente, non me ne ha fatti tutto. Cosa me ne ha frutta, anche io, antenne, antennoni, barracche, barracchi, scendo tutto lì, la 5, la cosa, la verticale per le V e per le U, la metto senza rotore perché c'è il coso, e in quel palo lì metto l'antenna alta 10 metri, la verticale della 27. Un attimino, dai, c'è gente, devo fare i corretti, ci sentiamo dopo, magari. Buona serata e buon continuo a questo. Ciao già. Ciao a tutti, dai. Io chiudo, vi ho ascoltato tutta la sera, vabbè ogni tanto sono intervenuto, ci sentiamo, dai, ciao a tutti, ciao Roberto, Claudio, Massimiliano, Riccardino e Gianni, Claudio da Muro, saluto a tutti, chiudo, ciao, riprendi pure Massimiliano. Ciao Giulio, scusa, non sapevo che c'eri anche tu, perché la verità, dal momento in cui c'era il disturbatore ho preparato tutto spento completamente, quindi non ho acceso adesso e non sapevo neanche che c'era, no? Ok, ciao Giulio, buona serata e buona continuazione. Avanti Robert. Un attimo Robert, per la cronaca, poi ci sono un contagio in Sardegna, nell'Oristanese, però in Italia 888 contagi e 195 morti, ma speriamo bene. Vabbè, riprendi Robert, scusa, ciao a tutti, ciao. Ciao Giulio, sentito, non sapevo che c'eri sotto, poco fa avevamo chiamato. Ok, saluto anche a Gianni, dai, ci sentiamo con calma. Massimiliano, ho sentito anche Claudio di questo disturbatore, ma io non ho mai sentito nessuno qua, nel senso non mi ha mai dato problemi, perché vi dava problemi a voi. No, non è che dava problemi a noi, il problema è che quando parlava Gianni Capri 2, qua arriva un po' più basso e giustamente questo qui aveva una portante più alta di lui e quindi non me lo facevo ascoltare tutto qua. Ma so già chi è, capito? È nelle colline in alto, mi capito? Quindi devi chiamare, non lo so. Ok, purtroppo c'è gente che si diverte così, io dico se hai piacere entra, o se no statene zitto e te ne rimani in disparte. Non ho mai capito io la logica di mettere le portanti, è proprio una illogica. No, vabbè, perché poi non è bastato, allora nel canale 10 se n'è andato anche nel canale 20 a rompere le balle. Capito? Le si devono tagliare le mani in modo che non lo usi più quel mic. Però che poi non disturba più. Sì, ma chiare, cioè siamo noi, Non siamo noi, è fuori Sassari, ok? Non voglio fare né nome né cognome, ma è fuori Sassari. E si conferma che è fuori Sassari, non ti preoccupare. Sì, ma anche a te, mio genio, arriva più forte di te, capito? Arriva più forte di te. Ne approfitta quali sono le persone che arrivano con segnali bassi, sei contato infatti a me, a Massimiliano, a Roberto, a Gianni, insomma, a questi di Sassari. Manco lo vedono, a volte manco si accorgono che c'è, però quando c'è gente che sta parlando, lui si mette a fare un macco, capito? Che macco di debito, non mami? È esaurito di gabbo, capito? È molto messo male a intelletto. Vabbè, comunque, già lo sappiamo io e Massimiliano che non ti preoccupare, basta che tu rientrai, rugherai lì, già vedi, che te ci lontano di un grasso. Avanti, Muros. Ehi, per la cronaca ti arriva forte a te quel segnale, vero? Ehi, va bene. Non ti preoccupare, già lo sistemo io. Basta che entri a domanda e controlli. Un volta controllato dal dottore io, Edu. Riprendi, Riccardi. Ma è una persona che entra qua in radio, che ascoltiamo qualche volta. Ogni tanto, se non entra mi fa piacere. Perché senta, è un segnale 9 più 30 a Muros, quindi non è da Sassari, è fuori Sassari questo segnale. È fuori Sassari, non ti preoccupare. È per esattezza, da casa mia 8 km all'ingresso del suo paese, capito? Per cui sappiamo più o meno la direzione, dai, non diciamo chi è. Se ascolta probabilmente si fa un esame di coscienza e speriamo che la smetta, dai. Io non ho mai notato nessun problema perché più o meno i segnali sono 9 qua, anche quelli di Alghero superano i 9, Riccardino adesso oggi è arrivato 9 più 10, era 9 più 5, adesso 9 più 10, e Eugenio oltre 9, tutti gli altri sono abbondantemente oltre il 9. Ma già troppa importanza le state dando, troppo le parole spese. Fregatevene, ieri bassa. E si conferma oggi, hai pienamente ragione, troppa importanza infatti. vabbè, se attacca ti arriva come arriva a me, non ti preoccupare, perché io lo sentivo sotto Gianni Capri 2. Capito? Già può disturbare se vuole disturbare, non ti preoccupare, Robe, tu non c'eri, entri sul tardi, ma noi siamo tutta la sera in radio. È tutta la sera che rompe le balle. Va bene, Massimiliano, prendi che mi preparo, vai. KK, dai, saluto Eugenio che non l'ho ancora salutato. Ciao G, buonasera, ben ascoltato. Oh, te sei Massimiliano Bulldozer, ieri ti ho fatto chiamata, non c'eri ieri notte. Alle 11 gli atti cuccati. No, io veramente alle 11 stavo finendo di cenare, non ho cuccato quanti travaglianti tu. E poi tu hai detto che finivi neanche le 10. E vabbè, ho finito, sì, ho finito alle 10:10, 10:15. Tra una cosa e l'altra eravamo lì col furgone, stavamo aspettando che ci mandassero via, tutto qua. E vabbè, no, io ieri notte non l'ho acceso, no. E poi non sono stato neanche molto bene oggi, e quindi, cioè ieri notte non sono stato bene, quindi le radio sono state un po' spente, no? No, oggi mi vai bene, cosa è successo, Massi? No, niente di importanza, no. Un po' ero sempre il QTH piccolo, no? Ah, se lo diamo contento, poi ci vuole una virus. Mazza di nevaria. E oggi? Sì, dimmi. Ma ieri cosa hai scaricato, la Tirrenia o che cosa? Ieri abbiamo fatto sbarco in barco la Tirrenia in tempo record. E dimmi una cosa, quante vetture sono scese? Ieri poche, sì. No, niente di eccezionale, poche. E passeggeri? Passeggeri non è a verba. Ma stamattina, mamma, stamattina tanta gente, me l'hanno detto i colleghi, perché io ero da un'altra parte. Io ero quella che arrivava da Barcellona e ha sbarcato tanta gente lo stesso. Ma turisti o italiani? Io non è che mi fermo a chiedergli la carta d'identità, robe. Targhe promiscue, targhe italiana e targhe spagnole. Boh, io non riesco a capire questa logica. Dite che non fanno entrare nessuno e vengono dalla Spagna. Io posso capire se viene un italiano, un sardo che per dire lavora a Milano e viene ritorna qua nella terra. Ma se mi dici che arriva a Barcellona carica di persone, non saranno tutti quanti sardi, penso, no? Però c'è la polizia che li ferma ad uno a uno, danno l'autocertificazione e li lasciamo passare. Evidentemente sono in regola. Non c'è nessuno che l'abbiano rispedito indietro, non ne ha visto neanche uno. Una volta un autista, ha fatto il becco? Ciao Cri, buonasera, come fa? Andava, ieri com'è andata? Perché ho chiamato io, ho telefonato io, gli ho detto, mica c'è Cri, sta pescando, tirati al largo. Ma si vede, mi allontano 10 minuti, dai, ci sentiamo dopo. Io, va bene, avanti di qua. Massimiliano, in direzione di Gioia proprio mi davanti ce l'ha. Vabbè, lascia perdere. Ok, dai Riccardo, se stai andando via ce la sentiamo dopo, va. Ok, saluto chi è entrato, non mi ricordo chi è, avanti. Ciao Cristian, buonasera, dai, Massimiliano a questo. Sì, mi senti? Ciao, buonasera. Come mai è durato attaccare tutto? Ho detto come mai è riattaccato tutto? Va bene, dai. Meglio così, almeno ammazzi il tempo, ok? Resumate Porto Torres, resumate, rifate il canale 12 in onore a Giampaolo Silvestro. Ok, Massimi, io vado a portare Peppedo, se ci sei già torno subito, ok? Ti lascio in compagnia di Eugenio, ciao anche a Coso, a Riccardino, ci sentiamo dopo. Comunque qui che è il Sassari, quindi... Ah, non è Cristian quello importatore, Gigi? No, è Cristian di Sassari, Cristian K2, che è modula più o meno dalla fattoria, dalla Buti Buti. Ho capito, K2 sì, pensavo che era Cristian, perché mi ha detto Cristian, c'era un Cristian a Porto Torres che parlava lì nel canale 12 assieme a Gianluca, Giampaolo, e non so se lo conosci tu. Ehi, io mi sono occupato di Gianluca in frequenza. Già ho capito Cristian chi, ma già aveva venduto tutto. Sì, però Cristian, sei lì alla fattoria. Chi sono Zona di Giù, sono le Sassari, attenzione. No, confondiamo la setta. Da K2, mi sei? Dovete allontanarvi, pensavo stavi andando via. Dai, io vado, sì ho capito, ragione Massimiliano, però Pitbull, quella è come risorso la fattoria, cosa porto Torres. Ciao, ci sentiamo dopo. Rimbaglio, ciao Cla, dimmi. E lì è Rimbaglio, la fattoria fa parte di Sorso. Ah, ho capito, adesso va bene, dai. Ebbè, ma ascolta qui, e quanto ci stai a metterlo anche a casa? Vabbè, la puoi mettere un'antenna da balcone, puoi mettere una boomerang, qualcosa di piccolino, magari. Sì, ma in DC? Cos'è il gesto? No, dov'è Cristian, che lo sento basso. Beh, si sarà abbassato, perché sicuramente è un movimento. Dove sei arrivato qui? Sono rapicato andando. All'Asi, ma sei basso, Metti il muso della macchina verso Porto Torres, che hai l'antenna piazzata dietro. Metti il muso della macchina verso Porto Torres. Oggi pure dell'antenna mettere grecchiare, io cazzo, spendi questi 20 euro, 30 euro. Mi arriva basso a me, usa un tigre, io non lo sento. Cazzo, lo sento io, da qua che sono più lontano e non lo senti tu, Ma io pure di l'antenna, cazzo, mettere grecchiare, io. Io viaggio l'antenna mettere grecchiare, ti sto dicendo che lo sento basso. Già ti sento, però per essere all'ansi, arrivi basso. Quanto ti arriva, scusa, oggi? A 5 arriva. Cazzo, a me mi arriva a Santiago 7. C'hai problemi di antenna tu, oggi? Sì, hai qualche problemino in quell'antenna. O è tutta rugginosa, dove sono i radiali. Sì, c'è un po' di ruggine dove ci sono i radiali. Lo vedi. Io vado e vado a sacare la pesca, che la piacciamo. No, devo fare prima una cosa, prima dell'antenna. A me la polizia è 40 euro, cazzo, buono, gioco, fa della futti. Avanti, Riccardo, senti tu a Cristian lì a Porto Torres. Sì, l'ho sentito, però è basso basso. Santiago 4, qua. Qua è 7, è Radio 5. No, adesso si sta sollevando. Adesso come segnale sta sollevando. Perché c'è il vento a favore a casa tua. No, ce l'ho contro io il vento di terra. Che antisega boccia che avrà attaccato il lineare. Marco, riprendi, vai. No, sto iniziando a mangiare, dai, sto ascoltando, ciao a tutti. Io ora di cena, no, di pranzo. Ma io ho la West Coast, l'ora della West Coast americana. È vero, la cena che ora è mezzanotte, l'una? Sì, mezzanotte. Sono abituato a quegli orari, va bene così, no? Ciao Marcolì! Non mi sente perché ho il vento contro. Ehi, già ti sento, voglia. 7:30, abbondante. No, cosa 7:30? 8:30 circa. Ciao, buonasera. No, riesco a sconfiggere anche il vento, hai visto Bulldozzo? Sì, l'hai trapassato, dai. Ma a me il mare lì giù, Cocli. Ma ieri cosa hai preso, Luda? Vabbè, ma quello conviene andare lì a cosa, al mercato, così paghi, te lo scegli. Butti l'amo dentro la gozo, dentro la busciacca. Però almeno se lo scegli il pesce, capito? Qualcuno qua, non so che ci può essere, se lo fa Pomponio o Fabrizio. Cosa c'ha a finale bruciato? Magari se c'ha tempo Fabrizio te lo può controllare lui. Alessio Pomponio, non so se ne sta ancora facendo, Sì, loro già sono qua in radio. Vabbè, Fabrizio sta anche su altre frequenze, dai, è un animatore. Va bene, ok, vai, io se no mi lo so già fare, vai su subito. 50, 60 euro ve ne sono la Lampadura e 48. Te ne prendi uno funzionante e quello te lo tieni per pezzi di cambio. Ma chi l'ha detto? Se funziona, non funziona, tranquillo. E quello te lo tieni a pezzi di cambio. Ci sono. Mi ne ho mandato uno da poco, quando ero ieri a Fantieri, a Tino, dentro la scatola, 70 euro. Pappagappa, andrà bene, avanti Eugenio, ti ho lanciato mi con la canna. Soghinonga, ragazzi. Soghinonga. Ho visto che c'è un bel, com'è che si chiama, un summer camp, oggi, tipo quelli che piacciono a te, è tipo il Galaxy Turbo. No, mi sono messo a fare una cosa, io voglio cosa, il Kenwood. Ecco, preso di un Kenwood allora. Sì, me l'ho preso il Kenwood, ma ancora ce l'hai. Sì, no, ma non lo do. Come ti ho, li vendi con l'alimentatore? Sì, lo stavo, adesso non lo più. Chiedilo magari c'ha qualcosa, se c'ha qualcosa a Claudio, boh. No, no, adesso ho preso anche l'MC60, no, almeno me lo tengo, là. Va bene. Ma poi non fai antenna, non devo andare con la radio del genere. Tu non ti preoccupare. Ma se lo chiedo a Claudio qualcosa, magari ti trova lui, di qualcosa di buono, magari. Già lo so. Era un 140 da poco, 250 euro. No, io voglio il 440. Allora se vuoi 440 ci vogliono intorno alle 400 euro, là. Ce ne sono, già ce ne sono a 400 euro, con microfono normale però, Sì, pure manco la ciappi. Allora, si la ciappi di manco, c'è Cardio, e lo devo ticchio. Cappa, cappa, avanti Riccardino. Roberto dove se n'è andato a mangiare qualcosa, boh, non so. Ti manca? No, volevo sapere quanto era là, stavo scherzando. Ecco. Ehi. Ciao Gabri, buonasera. Ci sono io, Eugenio e Cristian giù da Porto Torres, Riccardino, e poi sicuramente ci sarà qualcuno in ascolto che non vuole entrare, no? Avanti Gabri. Ehi, un saluto a tutti, appena rientrato. E niente, da. Avanti Riccardino, avanti. Ma sì, dimmi. Riccardo ti ha fatto una domanda, lo lasci così. Ah no, pensavo che non fosse diretta a me. Scusa Riccardo, dimmi, ripeti cosa hai detto. No, non mi ricordavo il nominato come stavo cercando per scusa, non ho capito. Riprendi oggi. Ciao Gaffi, buonasera. Bene ascoltato da questa parte Eugenio di Porto Torres, il più forte, il più grande, il più bello. Cambio. Ci ascolto abbastanza bene. 9 più 5, radio 5. 5, buona radio. Già lo so. Cristian, lo sente Gavino? Eugenio? Sì, dimmi Gavi. No, sì, scusa un attimo, ma l'amico che lo dicevo un pochettino basso, non ho capito il nome. Cristian. Avanti Cristian. È molto QRM, c'è. No, io non ne ho QRM, io ce l'ho zero. No, quando parla lui, sento molto fruscio. Tu oggi QRM hai? A 9,75 ce l'ho. No, per niente. Oh, dal 18 siamo un po' liberi, eh. Ehi, allora andiamo al mare, Massimiliano. Ehi, perché non si può andare anche al mare. Dal 18 non ci vuole più l'autocertificazione. E possiamo andare anche a trovare qualche amico, va. Fossimi bossissimo con un camper, finalmente. No, andiamo andato, a Porto d'Oro dobbiamo andare bu. No, poi cioè nel comune di Sassari posso girare tranquillamente. In provincia, dai. Provincia di Nani, a Sassari con un camper. No, mi ando a Valeuria, alla Ciaccia. Provincia di Sassari è lì, sì. No, è provincia di Orosì, ma forza. Non lo so, su quello magari ti devi informare bene, se puoi. uscire così, capito? Basta fare uno squillo ai vigili e te lo dico dove puoi andare. Io pensavo fosse finito da Gulto, alleluia. Rientrato, buonasera, ciao Gavì. Provincia di Trinitalagurto, sì, probabile. Ciao Claudio, ciao, ben sentito. Ehi, ehi, acra, vabbè. Non lo so, informati oggi. E tanto ti vengono gamper e ti vengono subito al volo. Sì, già lo so. Rompere le scatole è quello, capito? Come vedono un camper adesso al volo ti fermo. Va bene, vai Claudio. Sono io, ti dico una cosa, poi riprende Claudio. Quando non si poteva uscire, stavo scendendo a lavoro in moto. All'ingresso di Porto Torres, di fronte all'Agip. Posso i blocchi vigili, mi fermano. Ah, ma lì lavoro al porto, sì, ok, vada, vada. Vabbè, l'autocertificazione tenga, me l'hanno data, nuova. Scendo di fronte al granai, posso il blocco i vigili di nuovo, trama i dorlavo in mano. Mi ha detto, mettetevi d'accordo, perché no, autocertificazione, gliel'ho data e non era compilata. Come era compilata? Ha detto, mi avete fermato 5 minuti fa. Come? Ha detto, c'è lo stesso posto di blocco di voi stessi, vigili urbani, mi avete fermato. Ah, non lo sapevamo, che cazzo di cosa ti posso fare? In giro di un minuto mi hai fermato di voi. Vedi, è un macello. È un macello, Luigi, capito? È un casino, vabbè, però comunque tu lo sai benissimo adesso che i controlli sicuramente avanti venivano a caccia, quindi i controlli ci sono a manetta, oltretutto, specialmente col camper e roba così, ti fermano al volo al volo. Va bene, vai Cristian, riprendi. Cos'hai detto qui? Io non lo capisco. No, non ti ho capito. Cos'hai detto il Massimiliano, cos'hai detto? Ha detto di Casona 6 di Porto Torres, che anche lui ha parenti lì. Io sono in tutte le zone qui, mi conoscono tutti. Chi è il tuo parente? Dillo a me. Cos'hai detto? Boh, non ho capito, cos'hai detto qui? Gigi si chiama il suocero. Gigi? Gigi Gigi Elvati, non lo so. Quello che hai detto tu. Ah, ho capito. Deve essere quello della gelateria. No, è uno che fa le mani brillanti. Quindi Cri, comportati bene, sennò c'è i colpi. Cristian, quando lo vedi a Gigi, dale tante saluti da Pasqualino Marti. Capito, che lui mi conosce così. Non avremmo dato dei golpi, ma non avremmo brubigliato di viso, sinceramente. No, non ci ho mai lavorato assieme a lui, ma siamo molto, molto amici, è la stessa età mia, capito? Siamo molto amici, il fratello Cesare abita attaccato a mamma proprio, la porta di fronte a mia madre via Cavour. Dile Pasqualino, fratello di Antonello, già lo so chi sono, non ti preoccupare. Già ci siamo confrontati un sacco di volte con Gigi, ma siamo molto, molto amici. Ciao Cri, ciao, alle prossimine, sai che arrivati in TD un po' più forte, dai, già arrivi qua Sassari, io ti ascolto 5, perché vedo quella parte lì, la buti finale la vedo, se no non mi arrivi manco a misericordia. Avanti Gavi. Sto dicendo, non avremo solo la Cristian. Adesso è a Porto Torres e all'Agi sta pescando. No, perché io lo sentivo molto basso e poi stava innescando, sentivo ronzio, un fruscio tremendo. Io addirittura a me mi arrivano un bel basso, non riesco neanche a capirlo, pure io sono a Porto Torres. Oh strano, ma tu lo sai da dove modula? Sì che lo so. Va bene signori, dai, io vi la saluto che vado a far muovere le mandibole. Ciao a tutti, a più tardi, ciao. A te, okay. Dimmi Riccardi. Ti saluto, tu stai dicendo vai alla stagia a fare calcio. A fare windsurf. E chi è? Come si chiama? Luca Crepaldi. Luca? Crepaldi. L'ho già sentito, lo sai. L'ho già sentito. Va bene, dai. Ci sentiamo, tante cose belle. A tutti, ti intendimmo. Ciao. Ciao, genio, ciao. Ciao, ciao Eugenio, ci sentiamo, buona carica. Ciao, ciao. Ciao, ciao Eugenio. Ascolta Riccardi, ma hai cambiato apparato per caso? Perché qua mi arrivi, sei aumentato come radio e come segnale. Ehi, Americo Santiago 95 e Radio 5, molto meglio di prima. Adesso quando cambio l'antenna avrai una stazione perfetta. Andave, andave. Vai Massimiliano. Becco, becco. Beh, abbasso la frequenza. Avanti il becco. Becco. Avanti Gaia. Vabbè, ma non parli. Sì. Cos'è che hai detto? Gabi. Anche con l'elicottero, Gaglietta con l'elicottero. Avanti Gaglietta. Sto finendo di fare i compiti, Breco. Cambio. Ci messo la volante. Tu fatti il 10. No, cosa importante. Chi è che vuole entrare? Avanti. Oh, futura GB, Massi. No, no, la faccio studiare come radioamatore a Gaia. CB è troppo... radioamatore sono più tranquilli, no? Non vuoi tranquilli, io. Ma io mi peggio all'altro. No, ma ci credete, io vado giù un calcio, gioco un murenne, no? Gaspè mi apro la finestra. Ci vedi, c'ho la finestra spalancata, sono andato a portare il cane, gioco a petto nudo. C'è vento di scirocco e domani è bella giornata. Tutti al mare andiamo, Claudio? A mostrare il contechiappe. Non si può andare, no, non si può andare, cacchio, non ho capito questa storia, perché non si può andare al mare, capito? Non puoi stare in spiaggia, prendi il sole, però puoi entrare, no? Ti cambi in macchina, ti metti il costume, ti spogli in macchina, per dire, arrivi già col costume, vai, ti fai il bagno, non puoi saltare, vai in macchina e ti devi asciugare, non puoi stare in spiaggia. Non ho capito questa cosa, io non l'ho capita. E ancora per poco, a giugno sicuramente cambierà tutto, dai. Un po' di pazienza e vediamo un po' le direttive, capito? Allora, qua c'è scritto, addio all'autocertificazione per spostarsi in Sardegna, cioè si può andare in Donnarugo e visita gli amici, quindi ci possiamo vedere, capito, è tutto. Io anche penso da lunedì siamo a posto, non ce n'è problema, tranquillo, tu vedrai il casino che succede. Perché Massimiliano? Perché le persone intelligenti come noi usano ancora le precauzioni, perché puoi andare, però non è che ti puoi abbracciare e fare, vieni anche senza mascherina di tanta sicurezza. Tu avrai vedere un casino che succede, da lunedì in poi lì. Ma secondo me Cla, è tutto una cazzata e cagoso. Tu lascia perdere. Chissà cosa ha dovuto fare sotto sotto, boh. Comunque. Vai con la mascherina in macchina, cazzo, la buia, arrivi chi, mi cazzo, di bilio in braghiera, sai, abbracciato, ma cosa, aiuta, lasciamo perdere. Ma a me tu mi hai mai visto con la mascherina? Io riesco a portare il cane senza mascherina, la mascherina la uso, i guanti, solo quando vado a fare la spesa, perché è obbligatoria. Io per strada so cos'entra la giora, quando mi fermo con qualcuno rimango a distanza, mascherina io non ne uso, la uso solo per andare a fare la spesa. Da quando è iniziato questo casino, mi? Ok. Ma guarda Cla, io vedo qua nello stradone scendendo a casa, la gente è proprio fuori di gabbo però, Cioè correndo a piedi e con la mascherina, io sono fuori di gabbo proprio. Non serve a niente, infatti sono scemo, ma neanche in macchina devi usare Massimiliano. Perché l'abitato tuo non entra nessuno, entrano quelli di casa, capito? Quando esci dalla macchina te la metti se te la puoi mettere. Se poi vieni da me, che stiamo parlando come abbiamo già fatto e stiamo a un metro di distanza, non c'è bisogno manco di mascherina. Io non idrato, la metto, ti ripeto, solo per andare a fare la spesa e boh. No, io in macchina non ne uso, io non uso né mascherina e né guanti, però se giustamente si siede un'altra persona sei obbligato a metterla, capito? Avanti Gavi. Sì, anche io più o meno so come te Massimiliano. In alcuni casi però ci vuole, quando sei fuori, all'uscita, se vicino ad andare in qualsiasi negozio devi per forza metterla. I guanti no, non li metto, non li sto usando, li uso nei negozi alimentari, sì, quello sì, tocca a me, c'è la roba. Quello è obbligatorio, Gavi, dentro l'alimentari è obbligatorio, guanti e mascherina. Si conferma, se non ti fanno entrare, anche a me non mi hanno fatto entrare, allora sono dovuto andare alla macchina e ce l'avevo in macchina e prendermi i guanti e la mascherina, ce l'ho sempre nella bustina ed è così, però è un controsenso, uno si mette a correre a rasura con la mascherina, non serve proprio a niente. Però io sono convinto che da lunedì in poi qualcosa succede, fidare i golpi, un bel, perché queste cose sono obbligatorie, soprattutto adesso che riaprono tutti, bar, ristoranti, pizzerie, negozi, capito? Lunedì riapre tutto. No, Massimiliano, se tu ti siedi in macchina con tua moglie non c'è bisogno di mascherina. Se mi siedo io con te sì, perché non sono di famiglia. Aspetta, però forse ci siamo dimenticati di Claudio Di Muro, scavolo. Claudio, ci sei ancora? Mamma mia, io mi sono ricordato adesso, scusa, mi sono ricordato adesso che c'eri qua. Infatti ho detto, mamma, ci siamo dimenticati di Claudio. Riprendi Claudio, è entrato anche Gavino. E io Claudio, mi ha ascoltato. Massimiliano, ti sei ricordato anche che c'è Riccardino pure? Sì, io a Riccardino l'ho anche rilanciato, vero Ricca? Però Riccardo ha preso già qualche volta, e invece Claudio è già da un bel po' in parcheggio. No, non ha problemi, io non sapevo che c'era Claudio, pensavo fosse andato via perché io sono mancato. E poi sono tornato, capito? Ciao di nuovo, Claudio, buonasera. No, non ho problemi, Massimiliano. Da fare così o così, poche persone, a girare tutti, c'è un rilassamento che va benissimo, ma quando siamo in tanti, in più, si aggiungono anche le portanti e tutte le varie cose, alla fine ne ribassa la gana, già hai visto, tu hai seguito perché hai chiuso anche tu, a me così non mi piace trasmettere, Massimiliano. No, aggiungo la doppia più io prima, comunque, lasciamo perdere quello. Una domanda a Claudio Ruginoso. Quante persone al numero, quante persone sono che ti arrivano 9 più 30 lì? No, non ho capito, ho detto al numero, quante persone sono che ti arrivano 9 più 30 lì? Ok, no, a posto. Confermi Massimiliano, confermi. Poi la udo in piazza Antonello, immaginate. Quindi ne rimani uno giorno, no? Va bene. Sì, perché poi quando andavo bene aveva lo stesso segnale. Sì, già è lui. Va bene, ok, ci è rimasto io, Claudio Gavino, e Cristian c'è ancora? E Pomponio. Va bene, lui, che stasera ti ho rilanciato un paio di volte, invece tu eri al 20. Ma l'ho detto, mi stavo spostando al 20, dovevo fare le prove Antonio, poi io mi sono assentato perché stavo recuperando dei led della TV, dai. Ancora non ho già finito. Vabbè, forse magari nel momento che l'hai detto io non c'ero, no. Infatti ti ho rilanciato un paio di volte, ti ho rilanciato anche Claudio. Ho detto, non riprende più. Cazzo, poi ho fatto una scarrellata, gatti, di nel 20. Ehi, vabbè, no, non succede niente. No, già l'ho sentito io a Luca quando è entrato e gli ha detto a Tino, passa al 20 che ti vuole Antonio. Quello già l'ho sentito. Vabbè, ma non ci sono problemi, quando ci dividiamo così per fare prove è giusto che ci dividiamo, la cosa me la fastidio, quando c'è un bel QSO, perché stavamo parlando di antenne, di tubi, di quello e quell'altro, iniziamo le portanti, sovramodulazioni e balle varie, quello me la fastidio. Per il resto siamo liberi di spostarci dove vogliamo, ognuno è libero di fare ciò che vuole, per carità. Avanti, Gavi. Ascolta, Claudio, un controllo. Come mi ascolti? O due? Non ti ascolto, non ti devo ascoltare. Sì, 9.30, 9 più 30, lo stesso segnale, ecco il segnale che c'è in più di Marco Condor, solo tu sei più giù. 9 più 30, radio super 5. Peccato quel bippicato, non sei riuscito a toglierlo. No, devo trovare lo schema di questo apparecchio che non riuscivo a trovarlo. Volevo sapere l'altro Claudio invece, come mi ascolta. Ok, va bene. Avanti Massimiliano. Sì, aspetta che no, che ha butto musica a manetta. Va bene. Hai attaccato con l'aggeggino? KK, sì, sì, sì, qualche 20 arrivati in più, dai. Asco, e come si può recapitare quello schema di quella radio? Boh, da chi? Boh, adesso prova già a dirlo a Vittorio, vediamo un po' se riesce a trovarlo lui. Giove. Ma che radio è, Massimiliano? Un colpo. Ah, ma quello che usi in laboratorio? No, è quello che c'avevo in laboratorio. Un colpo 1200 DX. Ci vediamo, ma non è come te come ti muove te. No, lì. Lì bisogna che ti attenti a vedere un po' se riesci a trovarlo, perché se riesci a eliminare quel bip, non dà fastidio, poi un bip molto molto particolare, capito? Almeno sono io che metto le portanti. Mi riconosco subito, qua. Aspetta che sto mandando la radio, Gavi, a Claudio, le sto mandando una foto della tua radio. Ehi, avanti, Gavi. Va bene, ciao Riccardi, avanti qua. Ciao Ricca, mi è sembrato di rivedere la portata un po' più bassa. Ciao Ricca, dai, buona cena, buon tutto, se coincide ci aggiorniamo più tardi, ok? Ok, ciao a tutti e a tutti. Ciao Ricca, buona carichetta dopo. L'hai vista la foto qua? Sì, la sto guardando, se riesco a aprirla. Che... Ah, incontro, ho capito. Ah, bella radio, eh. Ah, c'è la uscita via tutti i denti. È bella? C'è bella. Bella sì. E questa c'è, e questa uso. Roma 123 123. Sto una radio allucinante sul microfono. Vabbè, sì. Questi MB più 4 e più 5 stanno veramente esplodendo, Stanno andando veramente bene. Ma questo non è il tunnel. Questo è il tunnel più 3B. Questo non è né B né C, non va scritto nulla qua, però. Sicuramente sono i primi tunnel che sono usciti. No, questo è il tunnel più 3B. B, vai tranquillo. Manca la scritta, ma è il tunnel più 3B. Tranquillo. È il tunnel più 3B, quello nero è il B. La scritta ce l'aveva sotto il piantone, capito? Piantone che c'è di fronte, lì. Quello spazio che c'era la scritta lì. Tunnel più 3B. È quello. Funziona molto bene. Ehi, qua la scritta è cancellata, ecco perché non so il modello esatto, ma è come stai dicendo tu sicuramente. Davide, quando scendi qua portalo che le diamo una carteggiata e le diamo una passata di tinta, lo facciamo nuovo. Ehi, sì. Avanti che tocca, Se vai a me che c'è il vostro nuovo fiammante, mo mi c'è un po' attenzione, tra me. Smonto il coso, lascio solo la carcassa, e vuoi nuovo nero pacco, attenzione, non lo fare lucido, il tunnel, quello è un tunnel più 3B, lo sto ingrandendo al massimo, ma è un tunnel più 3B, lì dove c'è la fare cromata, lì c'era la scritta, tunnel più 3B, sì, l'ho riconosciuto, tunnel più 3B, questo esce un bel bene. E anche la radio che lo fa uscire bene, la radio è bella. Peccato, ovvero se riusciva almeno non tanto di eliminarlo, ma almeno di cambiarlo, va. Non si viene, cosa cambi? Cioè, va bene, è un bip diverso. Mi ricorda, lo sai quale bip, Massimiliano? Non so se te lo ricordi, dell'MS200. No, l'MS200 ce l'ha ancora diverso, questo ce l'ha come l'iGame quinto. Ah, scusa, come l'iGame quinto, sì, l'iGame quinto. L'MS200 invece ce l'ha singolo. Bravissimo, perché io l'MS200 ce l'ho avuto. Mi pare che mi avete dato il duplo. Ehi, tra il giro a due e tu l'hai dato a coso, a come si chiama? A Mauro. No, non l'ho dato a Mauro, l'ho dato un'altra persona che mi aveva regalato l'HF. Ti ricordi? Ah, sì. Allora Mauro gli ho dato io. Allora Mauro gliel'ho fatto avere io. Sì, chi me l'aveva dato a me l'MS200. Non mi ricordo se me l'aveva dato mia amica o quello di Ozieri, non mi ricordo. Comunque mi era entrato da uno di loro quella radio. fare. Quella radio che c'ha 6 puri, 6 punte, tu riesci a toglierlo e metterla a 4? Non lo so, andiamo a vedere, devo applicarmi a vederla, devo smontarla e vedere un po', perché se no si può mettere un altro microfono in effetti, e ti cambia completamente la radio, hai ragione. No, voglio proprio togliere dalla radio, voglio proprio togliere quello a 6 e metterla a 4, capito? Perché c'ho la radio che c'ha il down up, a me il down up non me la fotti nuda, e così posso usarlo con un microfono normale come questo per esempio, o con un microfono da tavolo, capito? Perché la radio non la sto usando perché c'ha il suo microfono normale e non mi piace molto, capito? Va bene, ma poi la vediamo assieme. Vai Lucarie. Ma se devo travagliare Lucariello, vai Muros, poi ti dico come devi fare Garrico, l'ho già fatto io. Vai Muros. Ciao Cla, è un piacere ascoltarti veramente, mi fa piacere se entri più spesso. Sei una persona veramente molto educata e a modo. Ti saluto, un abbraccio a mamma e salutami a Gianni. Vai Massimiliano. Sì, ciao già, buona carica, salutone in famiglia, un abbraccio, ci sentiamo alle prossime, vai Gavi. Ciao ciao già, ci sentiamo alle prossime. Gavi, è facile fare quel lavoro, perché intanto ne hai 6 di fili, tu ne devi usare 3 più la massa, ok? Quindi elimini col tester, te li controlli prima e li tagli, il down e up, intanto sono 2 fili che devi eliminare. E ne usi 3 più 1, come che stai facendo un connettore a 4. È facilissimo da fare, poi Massimiliano già l'ha visto fare, e te l'abbiamo fatto in una radio, Massimiliano, se ti ricordi da Gigi Vulcano, no? Togli prima quello vecchio e poi ti prepari quello là, quello l'altro, e lo inserisci. Se si può inserire già saldato da fuori, lo fai entrare a senso contrario, e se no lo metti già pronto a saldare dall'interno, capito? No, nella radio là, dall'interno devi usarne solo, addirittura puoi usarne anche solo 3 di fili, capito? Sono da vedere bene così, non è una tagliaffa, capito? Quello lo puoi fare sul microfono, ma io voglio proprio cambiare il connettore della radio, attenzione. Ma noi non ci capiamo quando parliamo, ti sto dicendo la stessa cosa, sto dicendo per cambiare il connettore maschio e femmina dalla radio, non fai altro che eliminare i 2 fili che arrivano al connettore della radio, che sono il down e up, e ne usi 3 più 1 che la calza, ok? E usi il connettore a 4, ti sto dicendo la stessa cosa. Poi il microfono è un'altra cosa, il microfono è facile farlo, una volta che tu ti prepari quello della radio, a fare l'altro è facile. Sì, no, così non mi piace a me, proprio per niente. È arrombata, capito, e non la sto usando per questo motivo. E vabbè, va, faremo anche quella, piano piano. Vai, Gavi, riprendi. Scusate, sono Massimiliano. Sì? Dimmi. Ma chi era, Vito? Io. Dai, ho risposto, sono scritto solo, e volevo essere contattato, l'ho contattato, adesso vediamo, va, grazie. Di niente, e tu ogni tanto per quello magari quando non sai cosa fare, prova a entrarci, capito, ogni tanto magari commentano e fanno. E niente, vabbè, contattato direttamente in privato, no, di lì. Su Messenger, io non risposto, va. Adesso vediamo se mi chiamo o meno. Va bene, tu che sei più orecchio fino, va in saturazione questa radio? Abbastanza. Ah? Abbastanza. No, ho capito, aspetta un attimino. Abbastanza, ti ho detto, un bel, sei saturo. Cazzo, allora quando scalda funziona così, aspetta che abbassiamo. Guarda un pochino adesso. Devi abbassare ancora. Adesso quando scalda va in... Vedi un po'? Questa cosa io l'ho già sentita di questa radio, che quando scaldava andava così. Ed era la radio di Gojo, come ti chiama di... Aiutami, quello... lo chef. Non lo so, è sempre quella di poco fa, l'ho lasciata accesa. Infatti stavo facendo dei documenti in... delle mail, adesso vediamo un pochino. Ancora satura, Eia, questo difetto ti ho detto, di quella radio lì, la faceva Cosio, quello della Teloce, avanti di Giamma. Non so se è quella la radio, quando scaldava faceva questo difetto, la stessa radio. No, non è questo, aspetta, abbassiamo. Guarda un po' a vedere adesso se è migliorato. Ora, 1, 2, 3. No, per me c'è sempre shuttle, lo provo amico Massimiliano, non vorrei che sto sbagliando, ma per me la radio non serve. È troppo cupa, troppo sciatura, mentre prima andavi benissimo quando l'hai attaccata la prima volta. Sì, ha ragione, è brutta la radio T. Cioè, si può ascoltare, ma non è la tua radio, no. Ma il dissipatore ce l'ha dietro quello? Sì, ce l'ha. Guarda a vedere se ha cambiato, che ho abbassato anche un pochino. No, è sempre sporca la radio, ma è caldo questo dissipatore? Sta scaldando, non è caldissimo, però... Stai anche sparendo le radio, tutto un asino. Vabbè, io ho sempre quel microfono tuo e sto abbassando il watt, guarda. Sono a 2 watt, modulati, poi tende a salire. No, è lo stesso, come si chiama, porca miseria, che hai capito quello della Teroce, lo chef, come si chiama? Vabbè, comunque è lo stesso difetto, lui abbassava i watt e faceva, non calava, quando scaldava faceva così, appena accesa era una bomba sul radio, e poi faceva questo difetto, non c'entra niente il watt, no? Graziano. Bravo, Graziano, porca paletta. Ascolta, Otti, adesso tu lasciala così quella radio, togli il più 4 e metti quello palmare. No, Massimiliano, non ho messo 4, no. Ho sempre il palmare, non posso attaccare altri microfoni che non ne ho. No, ma è completamente brutta, è completamente, adesso si sta sporcando ancora di più. Sicuramente quella radio è più scalda, più brutta esce. No, un problema, boh, non lasci pure sul VLL, non lo so. Non lo so, però questo tipo di problema ce l'aveva il Lincoln di Graziano, uguale, preciso, identico, stesso problema. Quando lo accendeva usciva una bomba, iniziava a parlare, boh, si sporcava la modulazione, ho detto, ma cosa adesso stesso? Ma questo è quello che stavo usando prima, che ti abbiamo detto, era una bomba. Guarda, non so cosa dirti, così vanno là, lo sto provando, è proprio per questo motivo qua. Tant'è vero che gli ho messo il 747 per vedere se la modulazione teneva o meno. L'ho lasciato acceso per questo motivo, Massimiliano, capito? Ma adesso è cambiato. E adesso è un'altra musica. Vabbè, no, lascia sempre quella lì invece. E vedi un po' ancora, no? Cioè, fallo scaldare ancora un pelino di più, a vedere come va, se va ancora più sporcandosi la modulazione oppure è brutta, prima era una bomba quando era acceso, bellissima radio, adesso se quella lì è bruttissima. Sì, ma è quella che aveva prima Graziano quella radio? No, è quella che aveva regalato Walter tempo fa, ce l'avevo sempre conservata, quello da Antonio, ho abbassato il watt perché erano troppo alti, chiudi la finestra, vorrei, erano troppo alti, era 40 watt mi dava addirittura, e adesso ne ho di meno, però fa sempre il solito problema. Sì, lo stesso problema di quella di Graziano, pensavo fosse quella, capito? Perché Graziano l'ha venduta, quindi può essere che sia andata in mano a Walter, non lo so. Era un periodo che Walter restava baracchini da tutte le parti, non lo so se è quella. Comunque lo stesso difetto. Graziano quando l'accendeva era una cannonata. Si metteva a modulare, come scaldava non riusciva più a lungo, ma proprio brutta, cioè è quasi sparita la modulazione, satura a morte. Io vedo che la faccio andare se poi va in saturazione, non mi interessa, capito. Va bene, dai, pensavo che rimaniamo a parte. Lasciala attaccata, vai Gavi, attaccalo di nuovo e riprovalo. Gavi, riprendi, forse Gavi non si è allontanato. Lascialo attaccato e continua magari con quella lì per vedere se è sporca ancora. Sì, addirittura Graziano alla fine poi non si capiva più niente. Nulla, è un problema uguale, preciso, identico, mi ricordo perfettamente. Alla fine Massimiliano proprio non usciva più di radio. Ma cosa ci vuole secondo me lì dentro? Ci vuole piazzata una ventolina di quelle piccoline per raffreddare. Secondo me quella lì deve rimanere sempre a una certa temperatura per modulare bene. Quello è il problema di surriscaldamento di finale, roba del genere. Ma vetturina all'interno, ci sta, perché dici Portolone che sia così caldo, capite? In confronto a questo che sto utilizzando adesso, che sta scaldando, qua è tiepido. Vabbè, magari lì ci sono da rivedere altre cose, capito? Magari surriscaldare le PLL, capito? Magari con un aiuto di ventolina risolve il problema. Hai capito, Oti? Ma adesso ancora non l'hai riattaccato quello, giusto? No, perché sono in mesca, però lo comodo, va. Ma ce l'ho attaccato, quindi lo vediamo bene. Ehi, ehi, no, te l'ha detto Gabino, sì, che l'alimentatore va bene, ma ci vediamo. Guarda, adesso sono quasi a 0 watt. A 0 watt è con picchi di modulazione a 5, vediamo. No, aumenta, che così è brutta. Allora, guarda, poc'anzi ero così. Ora, anzi, anche del sì. Così era poc'anzi, guarda. Vediamo un attimino, aumentando. Ora, così va meglio? Aumenta un altro pelino. Bene, così va meglio, guarda, 1, 2, 3. È satura, però è meglio di prima. Ma se satura Massimiliano, mi piace, non è che... Non saprei cosa fare, guarda un attimino, aspetta. Guarda se cambia così, ha cambiato qualcosa? No. Qui aspetta, 1, 2, 3, prova il microfono, guarda così. Così ha migliorato. Ha migliorato, aspetta un attimino ancora. Guarda così si è migliorato, 1, 2, 3, prova. Non è il massimo, però così è, secondo me è migliore, classico. Aspetta un attimino, perché forse c'è il ritmo che voleva regolato, Guarda, aspetta. 1, 2, 3, prova, guarda così. Così è buono. Ha migliorato? Sì, è migliorato, ma non è come quando è entrato. Io noto sempre questa saturazione. Ha migliorato da prima, Ocla. Sì, un po' migliorato. Prova a metterlo al contrario, il ritmo mentre stai parlando. No, adesso te lo metto un pochino di più, guarda a vedere se ha cambiato. Vedi che allora è quel cazzo di ritmo. Mettilo tutto al contrario mentre stai parlando. Giralo da destra verso sinistra. Te la dico io la posizione. Guarda, adesso è a manetta. Poi ti faccio un altro passaggio. No, mentre stai parlando lo devi fare. No, così non ti capisco a te. Prova a vedere. Prova a vedere. Mentre stai parlando devi fare tu. Non mentre stiamo parlando noi. Mentre stai parlando tu, lo giri prima a destra e poi a sinistra. Poi molli io ti dico dove va la posizione. Va bene, questo è un passaggio. Prova un momento di fatto. Aspetta. Ecco così, guarda così se va bene. Questo è a ore 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma ore 9, scusami, ore 3. Adesso lo mettiamo a ore 2. 1, 2, 3, ore 2. Adesso lo mettiamo a ore 1. 1, 2, 3. Così è a mezzogiorno. 1, 2, 3, 4. Vuoi andare ancora verso sinistra? Quindi devo girare, cazzo, poco fa, allora, così alle 11 praticamente, ore 11, 1, 2, 3, prove di modulazione. Cazzo ti, mi ascolti quando parli con me, non me la fotti uno da 10, 11, ti ho detto, dal centro, allora quello c'è una posizione, Enrico, no? Al centro, lo devi mandare prima tutto a destra, mentre stai parlando, fondo scala a destra, fondo scala a sinistra, prova. Se io faccio fondo scala a destra, allora vabbè, ti faccio fondo scala a destra, guarda. Ok, questo è fondo scala a destra, però se tu parli io non ti capisco perché è come che si sposta di frequenza, prova. Ho capito, ma fregatene di quello, poi vediamo la posizione, se è a destra o se è a sinistra. Adesso l'hai messo tutto a destra e non cambia, mettilo tutto a sinistra. Adesso è tutto a sinistra, 1, 2, 3, prova di modulazione. Sollevano un pochino di meno di tutto a sinistra, a metà, a un quarto. Bene, questo è quanto. Oh, vedi che già stai migliorando. E quella radio c'è un problema di. Allora è la media frequenza da tarare. Perché con quel RIT praticamente sembra che vai fuori frequenza, non è più una saturazione. Massimiliano, cosa dici? Sì, però allora è buona ancora la radio, Secondo me deve aumentarla un pelino ancora, verso le ore 11. Proviamo, aumentala ancora. Guarda così, 1, 2, 3, prova. Guarda, così è già buona la radio. messo giù, sta appena appena con i watt, abbasso appena appena i watt a vedere. Va ancora in saturazione? Ok, abbassate il watt, guarda un po', 1, 2, 3. C'è sempre Massimiliano? No, c'è ancora un po' di saturazione, prova a aumentarla tra mezzogiorno e le 11, ok? Sono già a mezzogiorno, va, adesso te l'aumento tra mezzogiorno e l'una. Ecco qua, guarda un po' se è migliorato, ma poc'anzi era così. No, al contrario devi andare, Tino, non verso, diciamo, non verso destra, verso sinistra. Cioè quel coso, quel pomellino che c'ha, portalo tra mezzogiorno e le 11, a metà. Ok, fatto. Guarda un pochino, 1, 2, 3. No, ma il problema è lì comunque, però la radio rimane satura. Sì, ma hai detto che hai toccato un pulsantino prima, è in fuori o in dentro quel pulsantino? No, non ho toccato nessun pulsantino, ho girato solo il cursore. Guarda se cambia invece così, perché poco fa ha cambiato, guarda un po'. Satura. Satura. Ma deve essere qua, aspetta, lo facciamo andare un po'. Destra e sinistra, se la faccio uscire fuori di testa, Ecco qua. Prova a vedere, 1, 2, 3, prova di modulazione, abbassiamo un pochino il watt. Non c'entra niente, abbassi il watt. Se abbassi il watt aumenta la radio, ma rimane sempre satura. C'è stato un secondo, Massimo, non so se te ne sei accorto, come hai fatto destra-sinistra, ha schiarito la modulazione. Io gli ho detto di metterlo verso, prova di nuovo a metà invece, prova la metà, Audi. Allora, così è tra le 11 e mezzogiorno, adesso lo mettiamo a metà, così a metà, vedi? 1, 2, 3. No, vedi, lo rimette tra le 11 e mezzogiorno. Lo riporto indietro allora. Certo, quel pelino che gli manca, tra le 11 e mezzogiorno. Fatto, 1, 2, 3, prova, ma sicuramente qualcosa, c'è un po' di ruscito, buffi, cacchio adesso. No, te lo dico io cosa c'è, che hanno toccato la media frequenza lì, perché quello gli serve per le medie frequenze, per centrare, soprattutto quando sei in banda laterale, hanno toccato qualcosa all'interno, quindi fanno attaccare il misuratore da Fabrizio e farle controllare se è praticamente in isonda quella radio, perché secondo me il problema è lì. Ascolta, Ocla, visto che tu c'hai quella radio lì, fatti un passaggio in USB e controllagliela sui fuori, no? Io non ho problemi, prova in USB. Sì, sicuramente, uniform. Lascia perdere, T, che è come ti dice zio Claudio. E come ti dico io, non ho toccato la media frequenza, e per quello quella radio fa quel problema. Non riesco manco a trovarti in USB. Ho provato da 27.075 a scendere, scendo quasi a 26 e rotti, poi torno a salire e non ci sei neanche. Dalla Fabrizio quella radio, dai retta a me, la fai controllare con lo strumento, che quella radio non ha toccato la media frequenza. Sicuramente sono andati ad aumentare i watt, capito? Non hanno bugato bene, perché sai, a volte facciamo questo non è, hanno messo il cacciavite dentro il trimmer della media frequenza e l'hanno spostata. Non lo so, vabbè, comunque sempre satura. Sì, l'idea di portarla lì era già in corso, ma devo aspettare a sabato, dai. Sì, io lo stesso, io non ti ho trovato adesso da parte. Perché fanno così, capisci? Come quella radio l'hanno tirato il collo dei watt. Prima di arrivare al trimmer dei watt, no? Che basta guardare sempre il manual service quando si fanno queste cose. L'hanno fatto occhio, questo non è, hanno messo il cacciavite dentro qualche trimmerino delle medie frequenze, l'hanno tutto incasinato, perché con la radio non c'è niente, non c'è assolutamente niente. Sì, vabbè, vuole controllata con le cose giuste, dai, era così, questa l'hanno toccata come a orecchio, dai, non a occhio, a orecchio. Ok, inserisci il rito, guarda se almeno in AM c'è entrata. No, è fuori, anche in AM è fuori, è proprio una questione di media frequenza, l'hanno proprio toccata a occhio e a orecchio, lascia perdere. Capito, a futtidini, perché quella radio non gli dà tutti quei watt, quindi gli hanno tirato il collo dei watt, ma prima di arrivare al trimmer dei watt hanno toccato sicuramente qualche trimmerino sbagliando e l'hanno spostato di frequenza. Va bene, ma adesso faccio con questa, poi vediamo, vuol dire che la porteremo a dottore. Portagliela, che è un gioco per lui, una volta che attacca lo strumento ci avvisa subito in dire che c'è la radio e te la, con la sondina te la mette a posto. È un gioco da ragazzi per lui. Va bene signori, dai, io ho fame, sono 9:15. Adesso vado a pappare, se ci siete a dopo, altrimenti ritenetevi salutati. Ciao Massi, ciao Tino, Luca e tutti quelli che sono in ascolto. Dai, ciao a tutti. Sì, anch'io ti seguo, mi stavo aspettando a rilanciarmi. Inizio ad andare anch'io a fare qualcosa, a mettere in moto qualche cosa di masticamento, quasi non una cosa butta male. Sì, ti conviene, no. È un peccato la radio, perché all'inizio usciva una bomba, grazie, era proprio bella a casa, bella, adesso è un peccato, sporca così. Va bene, no. Ciao Claudio, Tiro, Gavrino, Luca e tutti i vari ascoltori, no. Vi saluto, anche io scendo giù a mangiare, ciao. Va bene, dai, ne approfitto anch'io che si è rivelato il cucina Capicuina, devo andare. Se coincide più tardi, sì, la sera, io dovrò fare così perché tanto non la trovo più io. Ok, ciao, saluto a tutti, ciao a tutti. Riprendi, che c'è, Gavina? C'era Gavina, ho rilanciato un paio di volte, non ha più ripreso. Vabbè, dai, ciao a tutti. Va bene, ciao, ci sentiamo.